Balotelli, Segna Balotelli, e se saltelli, Segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Tutti convocati di Carlo Genta. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Buongiorno a tutti. Franco Piantaneda, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Oggi è il compleanno di Mick Jagger, anni 70, leader dei Rolling Stones. Questa canzone è per voi e soprattutto per loro, Massimo Moratti ed Eric Toir, ma anche per tutti i tifosi dell'Inter, perché ieri c'è stato, ormai è quasi storia, oltre neanche più cronaca, è quasi storia, c'è stato questo pranzo all'Armani Café, tempio fighettissimo di quella che era la Milano da bere, non esattamente il posto ideale per inchiostrare un contratto storico. Poi ci sono state dichiarazioni secche, a monosillabi, quasi stizzite di Massimo Moratti, che si rende conto, gli hanno spiegato, credo in tutte le lingue, che questo treno partito dall'Indonesia forse non passerà mai più. Oggi c'è stata qui sto facendo la cronaca invece, oggi c'è stata una parziale retromarcia di Toir, che ha detto accordo lontano rispetto l'attaccamento della famiglia Moratti a questo club, forse i tempi si allungheranno, però nessuno in Italia, non lo dico per ragioni di partito o meglio di appartenenza al gruppo, nessuno in Italia conosce questa vicenda, nessun collega italiano conosce questa vicenda come Marco Belinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno. Allora, facciamo un breve riassunto. La settimana scorsa mi dicevi il contratto c'è, la bozza del contratto c'è, manca una cosa essenziale in ogni tipo di contratto, che è la firma con gli svolazzi da parte di loro signori. Questa firma, nonostante Tuir sia arrivato, e questa è cronaca, non c'è ancora. Qual è la situazione in questo momento? Beh, io innanzitutto mi fiderei poco delle dichiarazioni delle ultime ore, nel senso che quando si arriva poi alla fine di una trattativa, si usano anche i media per lanciare messaggi alle parti. È chiaro che tutta una serie di questioni, l'accordo c'era e c'è tuttora, bisognava risolvere una serie di questioni per le quali soltanto le due parti interessate, più direttamente, più personalmente, appunto Moratti e Eric Toir, potevano e possono decidere, quindi non possono delegare ai consulenti. Da qui la necessità di un faccia a faccia, quello che è avvenuto appunto ieri in un luogo non certo riservato. Esatto. E quindi io ho avuto la fortuna, insomma, di saperlo un po' prima, con un tweet, insomma. Tu sei un ragazzo dei nostri tempi, caro Marco, e quindi i tweet sono viaggiano più veloci del suono. Hai twittato di questo incontro, poi è diventato l'apertura di tutti i giornali, no? Beh, è la cosa stupenda della tecnologia, su cui andrebbe fatta poi una riflessione, ma immagino che in questo momento l'interesse degli ascoltatori sia altro. Quindi a che punto siamo? Siamo a un punto in cui Toir è arrivato qui e devo dire Moratti si è scontrato con un uomo molto deciso, che ha delle posizioni ferme, e quindi quei compromessi su quelle questioni che vanno definite, che Moratti si aspettava appunto si potesse trovare un punto d'incontro, evidentemente non si riesce a trovare, nel senso che l'asticella non è al 50-50, ma pende dalla parte di Toir, che sta mettendo sul piatto delle cifre molto consistenti, tra i 300 e i 300 360 e 380 milioni, insomma, rispetto a una valutazione dell'Inter del 100% base di 100 milioni, quindi con un premio di maggioranza molto forte. Ci sono, ripeto, alcune questioni aperte che vanno chiarite e per le quali Torino non si è dimostrato molto disponibile. Se vuoi proviamo un attimo a sintetizzarle. Sì, è certo che voglio, sono qua apposta. Allora, innanzitutto c'è la questione dei debiti. Normalmente quando tu acquisti una società le dai un certo valore pesando anche quelli che sono debiti interni, e fin qui credevamo che l'offerta appunto di 300 e passa milioni seguisse questa regola. Invece Toir è disposto a pagare di più, quindi fino a 380 milioni per il 100% dell'Inter, ma a patto 346 sia... Ma Marco, io per fare le cifre che leggo oggi, 346 per il 75,67%, è questa la cifra, sono questi i numeri? Sì, sono questi i numeri, che poi possono crescere al 100% fino ad arrivare a 360-180 milioni, insomma. Il punto è che Toir ha chiesto a Moratti di alleggerire il carico dei debiti dell'Inter e quindi accollarsi appunto una fetta di debiti intorno a 200 milioni, tra 200 e 230, che non riguardano l'ordinario funzionamento, quelle linee di credito che hanno tutte le società, insomma, al di là di quelle calcistiche, sì, che resterebbero, diciamo, nella pancia dell'Inter, 40-50 milioni, ma evidentemente quelle obbligazioni contratte in tutti questi anni per rendere l'Inter competitiva, per vincere il triplete. Sì, lo sappiamo, le famose pietre al collo che Moratti si è infilato dopo aver vinto a Madrid, con i contratti molto pesanti, molto lunghi, esattamente. Con giocatori non più giovanissimi, ma la lista la conosciamo. È chiaro. E quei contratti, quelli che erano in essere e che non sono stati ceduti, come nel caso di Cesar Maicon, anche qui sappiamo il nome non c'entra di segreto, vengono lì. Cioè, chiaro, se facciamo due conti della serva, poi a Moratti resterebbe in tasca un 100-150 milioni, che potrebbero sembrare pochi, ma considerando la congiuntura economica, considerando la realtà dell'Inter, che è un club che attualmente macina perdite per 70-80 milioni all'anno mediamente, almeno così è stato nell'ultimo decennio, sono una cifra, insomma, da non sottovalutare, da quell'offerta che non passa più di a cui facevi riferimento tu in apertura. Senti Marco, ti posso interromperti un attimo perché abbiamo la borsa. Intanto giro la domanda tormentone al Pueblo Nerazzurro e non solo. Ma voi volete Moratti o Toir? 800240024, perché rendo nota la mia posizione, che è questa: da non tifoso interista, io non posso sopportare l'idea del lunedì senza Massimo Moratti sotto gli uffici della Saras, circondato dai microfoni, con l'occhiale di traverso quando perde, con il sorriso quando vince e dice siamo competitivi per lo scudetto della Champions League, e si fa prendere la mano dall'ottimismo. Non posso tollerare l'idea di un lunedì senza Massimo Moratti, quando poi magari la domenica dopo perde in casa con la Sampdoria e l'allenatore diventa improvvisamente in bilico. Insomma, siamo abituati così. Io credo sinceramente che Massimo Moratti preferirebbe, l'ho anche scritto, vendere un rene a Toir piuttosto che cedergli l'Inter. Credo che sia stato sinceramente infastidito da questo pressing così, così veritiero, così realistico, così appoggiato su solide basi, su vide iussioni, con tutte le cose in regola. Insomma, un po' impreparato ad un divorzio vero da una creatura che ancora ama profondamente. Lui, come tutta la sua famiglia, ma Massimo Moratti in primis. Io non sono pronto per il lunedì senza Moratti, o per il giovedì quando si gioca in Champions League. Voi non lo so, interisti e non. Tutti convocati. Allora, stiamo facendo il punto sulla situazione dell'Inter. Vi ho chiesto, ma voi siete pronti per un calcio italiano senza Moratti, per un lunedì senza Moratti? E io rispondo, da non interista no. Poi magari gli interisti sognano una revanche, no? Sognano l'arrivo di nuovi campioni, sognano l'infa nuova, perché La folla è femmina, soprattutto quella dei tifosi. Dunque, Marco Beninazzo, a che punto eravamo? Mi sono perso. Eravamo alla questione dei debiti, su chi dei paga debiti. I debiti. Abbiamo visto che, abbiamo detto e visto che Toir è molto fermo sul fatto che deve essere Moratti ad accollarsi i tre quarti dell'indebitamento della società. Un'altra questione invece molto spinosa è quella relativa all'organigramma della società. Sappiamo che Massimo Moratti ha gestito l'Inter non solo come un'azienda ma anche come una propaggine della sua famiglia, figlio vicepresidente Angelo Mario ha dato ruoli importanti in futura Interbrand e appunto per quanto si riguarda il figlio Moratti vorrebbe che ci fosse questa sorta di continuità storica al di là poi di quello che sarà la sua permanenza per i prossimi anni nell'Inter. Ci sono però tutta una serie di altre. Marco, figure. Anche qui ti faccio una domanda da ignorante brutale, no? Da non addetto ai lavori economici come sei tu. Allora, detto in soldoni, sempre un Moratti dipendente tra molte virgolette di Toir, cioè un Moratti con quote di minoranza che però resta a guidare la società e quindi sempre per dirla brutalmente e schiettamente che parla ancora sotto gli uffici della Saras a nome suo e non a nome del magnate thailandese. Io sinceramente una situazione di questo tipo non riesco a immaginarmela. Neanch'io, però è quello che in qualche modo si sta prefigurando, almeno per un biennio Moratti vorrebbe restare all'interno dell'Inter con un ruolo importante, magari con una presidenza onoraria, su questa questione si sta ancora discutendo, per garantire questa transizione, per garantire la possibilità appunto a Toir di conoscere il mercato italiano, anche quello calcistico, e magari poter sfruttare anche le sue conoscenze, i suoi rapporti per avviare una piena sinergia col Milan per ristrutturare San Siro o addirittura per uno stadio nuovo di proprietà. Insomma, Moratti vuole farsi garante del futuro dell'Inter, essere sicuro che l'Inter sia in buone mani e conservare un pacchetto azionario, ripeto, per un biennio, triennio. Anche su questo si sta discutendo, insomma, su quanto tempo dovrà passare o potrà passare prima che Toir acquisti l'intero pacchetto azionario dell'Inter e quindi la restante quota. Tutte sì. Questioni, Carlo, apparentemente diciamo secondarie rispetto alla volontà che c'è da parte di Moratti di vendere e da parte di Toir di acquistare, ma sulla quale, come ben sai, insomma, anche le trattative meglio avviate possono fallire. Io sinceramente sì, non sì. credo a un dietrofront di questo tipo, perché insomma è quindi Moratti venderà. Importante. Moratti venderà. Tu dici Moratti venderà. Sì. Credo di sì, mi sorprenderebbe molto il contrario. Se guardiamo alla logica puramente economica e aziendalistica, chiaramente questo è l'esito che io mi aspetto. Moratti sappiamo però che dentro l'Inter ha messo non solo tanti soldi, ma anche il cuore, e l'ha fatto da sempre. E quindi quando poi ci sono le scelte di cuore, insomma. Sai, mi sembra quello che proprio dice: non posso non vendere, però dannazione non ne ho voglia, però l'Inter me la terrei, però mi dà quasi fastidio il fatto che sia una cosa così avviata, così seria e in tempi così stretti. Magari lui preferirebbe dire ma aspettiamo ancora un attimo a fine prossimo campionato, prendiamo tempo, però il treno sta passando adesso e bisogna acchiapparlo al volo. Non date retta a me, date retta a Marco Beninazzo che è assolutamente informato, quindi o voi che ascoltate 800 24 00 24, interisti oppure no. Marco, però prima di salutarti e di cominciare a parlare con gli ascoltatori, io voglio andare invece sui colori del tuo cuore, che non sono quelli nerazzurri ma sono quelli biancoazzurri, per i quali stai sognando, e non far finta di niente, perché questa è una grande estate per il Napoli. Adesso lo sceicco vero del calcio italiano l'ha scritto anche oggi Repubblica. Ieri abbiamo mandato Totò, sceicco napoletano, invece oggi ne parliamo anche con gli ascoltatori, continuiamo a parlarne in attesa del perfezionamento del contratto di Wayne sulla solita storia dei diritti d'immagine. Adesso anche Verratti, compro tutti e è il vero re del mercato europeo, Aurelio De Laurentiis. Europeo, non so, italiano senz'altro. Anche europeo, avrei letto le cifre, no? Il Napoli sì, era quarto in classifica, però insomma, se adesso prende Martinez dal Porto, che è un attaccante che alla fine farebbe la riserva di Higuain, io credo. Se prende Verratti, come è stato scritto oggi, offerta irrinunciabile, ha detto l'agente di Verratti al Paris Saint-Germain, beh, se prende questo, prende quell'altro, poi magari prende anche un difensore, allora tombola, eh. Beh sì, io da tifoso naturalmente mi auguro che arrivino tutti, da giornalista che segue un po' le vicende economiche anche del Napoli, insomma, ho segnalato da tempo come fosse in atto una rivoluzione nel calcio italiano legata proprio al fatto che il Napoli è riuscito a crescere fino a questo punto in maniera equilibrata, insomma, con dei bilanci in ordine, con un utile che cresceva di anno in anno e con la possibilità evidentemente, dopo aver ceduto Cavani, di fare dei bei colpi. Mi accontenterei, ecco, di uno fra i due, da uno, sì, fra Jackson Martinez e Verratti, e sicuramente insomma il Napoli riuscirà, credo, ad allestire un organico di assoluto principio. Mi auguro sempre, dal punto di vista insomma strettamente professionale, che non abbandoni però la linea del rigore, che il presidente non si faccia, sì, prendere troppo dall'entusiasmo. A proposito, tu che sei un twitterista, oggi De Laurentiis ha twittato: non prendo Verratti mentre Martinez potrebbe essere l'idea giusta. Questo è l'ultimo tweet di De Laurentiis, però insomma aspettiamo, perché io penso che il Napoli non mollerà la presa, sì, su Verratti fino a controordine del Paris Saint-Germain, anche se Verratti dicono voglia andare alla Juventus. Poi credo di no, però spendere per esempio più di 30 milioni per un attaccante fortissimo come Jackson Martinez, ma destinato per quelli che sono gli schemi alla panchina, in linea di massimo, mi sembrerebbe un lusso che sinceramente ormai nemmeno più Real Madrid e Barcellona possono permettere. Sì, poi qualcuno mi dovrà spiegare, o gli ascoltatori, o tu, o un esperto di trattative, un broker, o un venditore di tappeti, dovrà spiegarmi il motivo, ma che resta un mistero per me, il motivo per cui, sai come diceva Lotito, no? Dare soldi, vedere cammello. Invece De Laurentiis fa vedere soldi e poi vuole cammello. Non si fa così nelle trattative. Dice: ragazzi, ce l'ho in tasca, ce l'ho qui, ce l'ho qui la brioche, come diceva una volta uno in un programma datato. Ce l'ho qui la brioche, 124.5 milioni di euro, fatevi sotto, datemi i giocatori. Ne abbiamo parlato, Carlo, l'altra volta, insomma, ti avevo, sì, anche, ma rimane un mistero, non me l'hai spiegato, cioè, nemmeno tu, Marco. Perché sfugge alle logiche strettamente, bravo, come dire, economiche, fanno parte del carattere di un presidente che, come Moratti per l'Inter, insomma, sta dando l'anima per la squadra. E anch'io, ora, al di là del fatto di fare il cronista e raccontare di questa trattativa riguarda l'Inter, sinceramente anch'io me l'immagino, insomma, un dopo campionato senza i commenti di Moratti, insomma, sarebbe è inammissibile, no, è inaccettabile. Anche guarda, se, non... anche se il mondo chiedo è cambiato, la riassegnazione, insomma. Chiedo la riassegnazione per la gioia di tutti gli ascoltatori dello sport su Radio 24. Vado a parlare d'altro, magari musica, Rolling Stones o dintorni, non lo so, inventiamo una nuova collocazione. Sì. Spero di no. Noi intanto continueremo a seguirla e vediamo se Toir, tra l'altro, effettivamente resterà un altro giorno a Milano, se parte, se ci saranno nuovi incontri. Insomma, è una vera e propria spy story, ormai sempre più difficile da raccontare, perché le persone che ormai conoscono i fatti sono sempre più poche, quindi la possibilità, sì, di avere indiscrezioni si riducono, quindi anche per noi giornalisti è difficile. Bravo, io conto su di te, Marco Verinazzo, grazie, alla prossima puntata del giallo dell'estate, uno dei gialli dell'estate from Indonesia. Adesso comincio a parlare con gli ascoltatori, 80024 0024. La musica indonesiana non ve la risparmio oggi, sorry, but this is the song. Non so se Giancarlo da Trieste, primo ascoltatore di oggi, sia tifoso dell'Inter. Ma non ci sono dubbi, io ho in mente sempre quella stupenda vittoria contro il Bayern di 3 anni fa, e per questo credo che tutti gli interisti saranno riconoscenti per la vita a Massimo Moratti. Però sì, il treno passa, e credo che onestamente, come uomo e come imprenditore, lo debba prendere e affidarsi, non dico alla buona sorte, ma a un imprenditore che ha delle capacità che sono fuori dalla portata dei presidenti e della società italiana. Quindi sì, forza Inter sempre, tutta la vita. Come uomo e come imprenditore, o come uomo e come giocatore, come uomo non lo so, probabilmente come imprenditore, perché ripeto, secondo me come uomo Massimo Moratti preferirebbe vendere a Toir una mano piuttosto che vendergli l'Inter o un rene o quello che volete. Come imprenditore si sta convincendo della necessità, o meglio dell'opportunità che gli arriva di fronte, che gli arriva incontro. Giorgio, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno, vediamo se la sento. Sono dica. D'accordo fino a un certo punto quello che lei dice. Intanto premetto che sono un interista sfegatato, perché sì. Sennò dopo potrebbe sembrare che non sia così. Dico anche che De Laurentiis non mi sia simpatico, però dico anche che De Laurentiis è un grande, perché non dimentichiamoci che qualche anno fa il Napoli era in Serie B, adesso non mi ricordo, era un disastro, e adesso stiamo parlando anche in C, volendo, volendo anche in Serie C, stiamo parlando di un Napoli che potrebbe qui la linea va e viene da Pordenone. Non capisco perché lei è d'accordo a metà col mister, me lo dice? Giorgio, no, non c'è campo, non c'è campo laggiù. Tutti convocati. Moratti o no? 800240024. Io voto per il no. Io personalmente non sono interista, però ripeto, io non posso sopportare l'idea di un calcio italiano di un lunedì, se preferite, senza Massimo Moratti. Massimo invece, non Moratti, ma dalla provincia di Caserta, è in linea. Buongiorno. Io non sono Moratti, ma sono interista anch'io. E sono pienamente d'accordo con lei sul fatto che è impensabile un lunedì le stilettate di molto eleganti, anche se molto orgoglio nei contenuti di Moratti. Mi scusi, Massimo interista, non Moratti. Mi scusi, ma sì. Suoi colleghi di tifo potrebbero invece controbattere. Mettiamo in un cassetto incolliamo all'album più bello con la copertina d'oro le immagini di questi anni, però adesso vorremmo ritrovare un Inter competitivo, un Inter che non sta lì a contare i centesimi per prendere Zuniga, ma un Inter che va all'assalto Cristiano Ronaldo, no? Messi. La trovo un'aspirazione legittima da parte della tifoseria nerazzurra, sì, perché certo. Il problema di Moratti è quello di essere, ancor prima che il presidente, tifoso. Il suo tentennamento, secondo me, è dato proprio da questo, sul fatto che da un lato sa che Toir può garantire un progetto tecnico, diciamo così, di valenza, di spessore, con l'entrata di moneta sonante, voglio dire, col bilancio che ha l'Inter adesso intorno a 165 milioni di debiti, voglio dire, non c'è molto da sorridere. Potrebbe essere Toir una garanzia di un progetto tecnico di spessore, ecco, anche a livello europeo. Attualmente con Moratti è impensabile, non credo che la tifoseria scenda al compromesso di accettare di vivere nell'anonimato, perché vivere, cioè seguire una squadra che non ha potenzialmente, a meno che non succeda qualche miracolo, e i miracoli sappiamo che sono, voglio dire, di altra di altro miracoli, mondo, non parliamo di miracoli, lasciamo stare i santi e i miracoli, però io ritengo come lei che sia una legittima aspirazione dei tifosi dell'Inter, anche se Toir ha già detto non immaginate un immediato futuro in cui arrivo, compro l'Inter e vado a strappare Messi al Barcellona, ma dico tanto per dire un nome, la squadra rimarrà questa e poi vedremo con il tempo. Intanto dovrà tirare fuori, se tirerà fuori, questi quattrini per acquisire il club, poi di mercato se ne riparlerà l'anno prossimo. Quindi i tifosi dell'Inter non si aspettino appunto il ricco che arriva lì e fa i fuochi d'artificio. Non rimaniamo da nessuna parte, passiamo da Caserta a Brindisi per Domenico, buongiorno. Buongiorno, io non sono interista, premetto questo, però penso che Moratti sia uno di quei pochi personaggi trasversali, diciamo, che vengono rispettati anche oltre quello che tante volte è il becero campanilismo calcistico sportivo, un po' come Del Piero. Ma sì, certo. Come dice lei giustamente, un lunedì senza il commento positivo o negativo di Moratti è inimmaginabile. Questo però, mi perdoni Domenico, questo con colori diversi, perché questo discorso può valere in generale per gli appassionati di calcio, per coloro che seguono le vicende del calcio, magari non esattamente per gli juventini, non esattamente. Dica. E niente, poi vorrei cambiare un attimo l'argomento. Io sono di Brindisi, sì? Brindisi segue molto la pallacanestro. Magari se riuscisse a trovare uno spazio maggiore in radio dove siete seguitissimi. Ma cosa? Brindisi o il basket? Brindisi basket, sì. Brindisi il basket, perché no? Insomma, lei sa benissimo che noi di basket parliamo tutte le volte che possiamo. Io in particolare parlo tutte le volte che posso. Sì, Brindisi è un club, Brindisi è un club storico della nostra pallacanestro. No, ma non solo, io parlavo di Brindisi. No, in generale del campionato, cioè, in generale, ma guardi, Domenico, un attimino. Io potessi ne parlerei tutti i giorni. Ieri abbiamo sentito Pino Sacripanti, che mi sembra che in questa strana estate dello sport in cui troviamo come al solito un po' di tutto, no? dal doping alle scommesse alla cessione dell'Inter, troviamo ai primi alle prove generali dell'idiozia dei tifosi l'altra sera a Reggio Emilia in quel Milan Sassuolo. Insomma, troviamo un po' di tutto, i romanzoni dell'estate sono questi. C'è anche il basket, che però insomma si è cosparso il capo di cenere, è andato avanti prendendo sberle da chiunque, perché negli ultimi anni abbiamo fatto a livello azzurro solo figuracce. Intanto, con il capo cosparso di cenere, andiamo a farci infilare la medaglia d'oro agli europei under 20 e andiamo verso un europeo che, sempre in silenzio, sempre dicendolo sottovoce, però un europeo al quale ci presentiamo con una nazionale che forse così forte non è stata mai, o quasi. Chi devo sentire da Bergamo? Angelo, altro nome che insomma è storico per l'Inter, non so se è interista, chiama da Bergamo. Angelo, buongiorno. Insomma, guarda, grazie per il nome tra storico. Massimo e Angelo, ma io sono una persona seria, sono milanista, ecco. Ah, perché gli interisti non, seri non sono? Sì, no, per carità, è una battuta. Bene, ok, gliela passo. Non so gli ascoltatori, ma io gliela passo. Dick. Allora, io sono milanista dai tempi di Gianni Rivera. Sì. Quando c'era Rocco e Elenio Herrera, Rocco al Milan e Elenio Herrera all'Inter. E ho sempre ammirato l'Inter per Sarti, Bugni, Facchetti, Guarnieri Pacchetti. E Jair. Però un pochettino meno, ma Jair mi piaceva moltissimo. Sì. Ecco. Però il papà di Moratti era tutta un'altra cosa. Insomma, adesso con tutto il rispetto, con tutto il rispetto del signor Moratti. E dopo devo dire anche che ero anche un grande ammiratore. Come squadra mi piaceva la Roma, quando c'era Falcao, Conti, quelle persone lì, quei giocatori lì. E ultimamente le posso dire qualcosa per il Milan? Sì, certo che può, siamo qui. Eccola. Con tutto Milan rispetto, di adesso, no? Non quello di Rivera. Sì, quello di adesso. Con tutto il rispetto per Allegri. E insomma, mi sono girato un po' le scatole 2 anni fa, quando eravamo avanti 5 punti e non abbiamo vinto lo scudetto. A me mi sarebbe piaciuto molto che fosse venuto l'aeroplanino. Montella, voleva Montella al Milan. Ah? Voleva Montella al Milan, lei? Mi sembra che piaceva anche a Berlusconi. Ci sarà stata qualche combinazione tra Berlusconi e Della Valle, boh. Ma non lo so, non mi viene, cioè, di misteri siamo già pieni, non so se c'è stato qualche gentleman agreement tra Berlusconi e Della Valle per lasciare Montella a Firenze, ma mi sembra che il Milan, anche quando Allegri era in bilico, abbia sempre seguito altre piste, quella che portava Seedorf, ma le conoscete, no? L'idea di Inzaghi e così via, di Montella al Milan non si è parlato. Poi è chiaro, Montella ha fatto cose straordinarie a Catania e poi quest'anno a Firenze, e quest'anno si trova per le mani una squadra estremamente competitiva senza il fattore sorpresa, quindi sarà forse ancora più difficile per lui la stagione che lo aspetta. È chiaro, è un allenatore giovane, è un allenatore che ha stoffa, è stato un grandissimo giocatore, è uno della nouvelle vague dei grandi allenatori italiani, speriamo che vada avanti così. Per i tifosi viola e non solo. Allora, adesso io vorrei, non so se far arrabbiare i tifosi della Ferrari, però vorrei parlare anche con i tifosi della Ferrari, perché domenica, lo dicevo ieri, c'è una gara che secondo me è cruciale ed è un incrocio vero del mondiale di Formula 1. perché Vettel è il grande favorito, perché Alonso si trova ancora ad inseguire, perché la Ferrari non ha tutte queste certezze, scarichi nuovi, qualcosa di nuovo, però l'Hungaroring è una pista carogna in cui contano molto le qualifiche, e nelle qualifiche la Ferrari ormai quasi storicamente, almeno negli ultimi anni, non riesce a combinare nulla. Allora sentiamo che cosa ha detto Alonso. Tutte le squadre passano delle difficoltà, sicuro è un momento difficile per noi, soprattutto dopo Silverstone, diciamo, perché fino a Silverstone è vero che abbiamo vinto in Spagna, abbiamo fatto secondi in Canada, che più o meno era ragionevole, e poi Silverstone e Nürburgring è un momento difficile con una perdita di performance. Vediamo di recuperarla qui, anche se sicuramente è difficile perché non ci sono delle grosse rivoluzioni, però speriamo di aver capito il problema e soprattutto dopo l'estate avere una macchina forte. Dunque, non mi sembra esattamente il ritratto della fiducia a Fernando Alonso, non mi sembra che le sue parole possano incendiare di entusiasmo i tifosi della Ferrari. La mia sensazione è che mentre per Moratti sta passando il treno indonesiano, per Alonso stia passando uno degli ultimi treni da Budapest. Però se le cose stanno così, e stamattina Vettel mi sembra sia stato di nuovo il più veloce, insomma non so se ci può essere così tanto ottimismo. Chiedo a Flavio Vanetti, penna storico del nostro giornalismo e inviato del Corriere della Sera, lì a Budapest. Ciao Flavio. Ciao a tutti, ciao Fernando. Traducendo le parole di Alonso, aspettiamo dopo l'estate perché qui a Budapest non mi aspetto grandi risultati. Ma sì, ma in realtà poi in effetti è vero, ma lo stesso vero già a prescindere, che comunque l'Hungaroring difficilmente sarebbe stata una pista da Ferrari. Adesso, tra l'altro, la situazione è proprio quella che tu hai già dipinto, anche adesso nelle prime battute della seconda fase delle prove libere, le due Red Bull sono avanti, però la Ferrari non sta andando malissimo. Adesso Fernando ha giusto completato il primo tentativo lanciato sulle gomme morbide e ha 162 millesimi da Vettel al terzo posto, Massa subito dietro a 2,80, lo scarto sulle medie è un po' più ampio, nell'ora dei tre decimi. Insomma, sinceramente io mi immaginavo uno scenario peggiore. In questo momento sembrano anche alle spalle le Mercedes e anche la Lotus, che peraltro secondo me è pericoloso e può venire fuori, soprattutto in condizioni caldo. In questo momento comunque non sono così a ridosso, non sono così, come dire, una minaccia pressante come altre volte, però è evidente che i conti vanno fatti su Vettel, e Vettel in questo momento è davanti. Ma io credo anche che Fernando comunque abbia chiaro che questa sarà una gara ancora sulla difensiva, e che davvero lo sforzo importante dovrà essere fatto immediatamente dopo la ripresa del campionato, quindi da Spa in poi, per cercare di vedere qual è il terreno. È una cosa comunque molto difficile, detto come va detto. Sì, molto difficile, e che può aprire anche degli scenari molto interessanti, mettiamola così, sul mercato piloti. Vorrei farti una domanda su questo, caro Flavio Vanetti, subito dopo il traffico, perché io non credo ad un Alonso che si rassegnerà a prenderle di santa ragione ogni anno da Vettel. Credo invece ad un Alonso che abbia voglia di vincere ancora un mondiale, che sia in Ferrari o che sia altrove, questo lo scopriremo, e ne parleremo soprattutto tra un attimo con Vanetti. Tutti convocati. 800 24 00 24, interisti e non, ferraristi e non. Stavamo chiacchierando con Flavio Vanetti, che è a Budapest a vedere le prime libere di oggi, e con Alonso che non sta andando tutto sommato malissimo, ma che è comunque dietro a Vettel. Allora Flavio, io non sono così convinto che Alonso possa rassegnarsi a spendere ciò che resta della sua carriera dietro al sogno rosso o sopra al sogno rosso. Io credo che Alonso possa andare via dalla Ferrari se non c'entrerà al mondiale. Sì, ma questo sono assolutamente d'accordo anch'io. Sono più dell'idea che Fernando abbia comunque la voglia di togliersi la soddisfazione di un mondiale con la Ferrari. La domanda è però: la Ferrari sarà in grado di dargli un mezzo veramente competitiva. Allora estrapoliamo un attimo il discorso di quest'anno, pensiamo un attimo al futuro. 2014 sarà l'anno della grande rivoluzione, del ritorno del motore turbo, e qui è tutto da vedere che la competitività sia così ad alto livello. Io credo che l'anno prossimo Mercedes sia ad esempio una squadra sicuramente molto favorita, perché credo che stia sviluppando il motore da molto più tempo. Poi ci sarà la Renault, che sicuramente sarà competitiva, e poi dal 2015 bisogna aspettare l'avvento anche dei giapponesi, anche del territorio giapponese. La Ferrari ha sicuramente un compito tecnico non da poco, cioè quello di rientrare nell'era del turbo con un propulsore che forse non è, come dire, troppo nelle sue corde, ecco. Quindi, e questa è un'incognita che può legare anche la parte finale del contratto tra Alonso e la Ferrari. Però Alonso sicuramente ci metterà di tutto e di più per essere competitivo, ma anche quest'anno, perché se la macchina sarà appena dalla sua parte, lui ci metterà sicuramente del suo per portarla al traguardo vittoriosamente. Rimane il miglior pilota del mondo, a mio parere, e sarebbe quasi una antistorico se, insomma, Vettel dovesse vincere questo mondiale. Andrebbero a Vettel 4 mondiali vinti, Alonso 2. Secondo me non è una bugia dal punto di vista storico, perché Alonso è un pilota straordinario. Al di là di questo, voglio farti, prima di salutarti, una domanda. Dimmi. No, devo dire sì, però attenzione, mi sembra che si stia un po' sempre sottovalutando Sebastian Vettel. Non dimentichiamoci che il signor Sebastian Vettel è anche il pilota che alla prima gara è riuscito ad andare a punti su una macchina come la BMW, che non era poi sta gran cosa. Cioè, alla fine è vero, io sono d'accordo che Fernando è un campione che meriti perlomeno il 3-3 nella sfida con Vettel, però attenzione che Sebastian è veramente un grande pilota, alla sua età già quasi alla metà dell'opera, anzi sta avvicinando pericolosamente ai record di Schumacher, per cui, insomma, credo che sia anche giusto, come dire, un po' riconoscere i meriti a un avversario, considerato però che lui ha sicuramente il vantaggio di aver lavorato in questi anni con un genio della progettazione quella del Newey, e questo sicuramente è stato un valore aggiunto per lui. Prima di salutarti, dicevo, voglio farti una domandina di basket, perché l'altro giorno, prima di partire per Budapest, hai scritto di questa nuova nazionale. Tu ne hai vissute tante di nazionali, hai ricordato tutti in un recente libro con Dino Meneghin. Ebbene, io voglio spendere ottimismo, sarò un inguaribile ottimista, ma questa nazionale nell'era dei vivai morti, del tanto piagnucolare che si fa intorno alla situazione italiana, questa mi sembra una nazionale fortissima, mi sembra una nazionale anzi matura per combinare qualcosa di importante all'europeo. Sì, sono assolutamente d'accordo, e diciamo senza mettere pressioni a nessuno che è anche giunto il momento in cui certe cose devono essere dimostrate. È tempo di uscire dal botto, cioè la gestazione anche di questo gruppo è partito dal 2010, dalle qualificazioni che non sono state nemmeno male, però poi non erano associate a una qualificazione diretta. Siamo andati all'Europa 2011 grazie a un lavoro politico fatto da Dino Meneghin per convincere l'allargamento del torneo a un maggior numero di squadre, quindi includendo anche quelle, le prime che erano state scartate dalle qualifiche. Poi l'Europeo 2011 è stato un europeo un po' strano, nel senso che abbiamo giocato anche delle grandissime partite tipo quella con la Francia. Abbiamo battuto la Lettonia, che non è una grande impresa, però la Lettonia era una squadra che poteva essere pericolosa. Poi abbiamo sbraccato su altre situazioni, ad esempio la partita persa con la Germania e poi la partita finale, quella con Israele. Quindi c'è il ricordo un po' cattivo dell'ultimo europeo, compensato invece dalla qualificazione eccellente dell'anno scorso. Ecco, ora bisogna trovare, secondo me, una quadratura a questo scenario, e credo che abbiamo un organico effettivamente molto importante, costruito anche in buona parte comunque sui italiani, e quelli italiani nel senso che i ragazzi anche che hanno giocato, che hanno fatto delle esperienze importanti come nell'NBA. È giunto il momento di cominciare a tirare la rete attiva e possibilmente aver dentro qualche pesce. Detto anche che avremo anche poi questo nucleo della Under 20 che si è appena lavorato campione d'Europa. Insomma, diciamo che forse non è così di brutto il diavolo come lo si sta dipingendo. Bravo Flavio, ti ringrazio, ti saluto, buon lavoro lì a Budapest. Grazie, saluti a voi tutti. Ciao, meraviglioso questo crossover. La Ferrari. Perché amiamo la Ferrari. Oh, 800 24 0024, lo dicevo, meraviglioso questo crossover per cui sentivo le macchine di Formula 1 girare sotto le parole di basket di Flavio Vanetti. Siamo così, ragazzi. 800 24 0024, numero verde, perché amiamo la Ferrari, canta questa canzone. Ha avuto tanti uomini di tutti i tipi, anche dei fiaschi che abbiamo amato, ma che alla fine nei ricordi sono rimasti solo dei caschi. Antonio, provincia di Imperia, poi Claudio dalla provincia di Venezia, da un mare all'altro. Antonio, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, innanzitutto viva, vivere alla Ferrari per tutta la vita, ma volevo parlare della mia Inter. Sì. Io devo molto alla famiglia Moratti e parla il cuore. Quando ero bambino andavo allo stadio con mio papà, avevo 10 anni, mi portava a vedere con la meravigliosa Inter e ho goduto tanto con questa famiglia anche in questi ultimi anni. Però, arrivato a questo punto, se vogliamo ancora godere, io sono un inguaribile sentimentale, vorrei Moratti al suo posto e vorrei questo Torier con tutti i suoi soldi, non so. Bravo, la moglie piena, la botte piena, la moglie piena, la botte piena, la moglie ubriaca. Questo non si può fare, perché nello sport, nella vita, nelle aziende, in ogni settore, chi mette il grano vuole in linea di massima avere le redini, no? Io non ho mai visto nessuno, ripeto, nello sport come in altri settori della vita, ma rimaniamo allo sport, nessuno a nessun livello che ha detto va bene, io vengo, ti do i soldi e poi tu comandi. Mai visto e credo non vedrò mai, quindi capisco i sentimentalismi che sono suoi e dell'attuale proprietario dell'Inter e di tutti gli interisti, però questo non è possibile, mi spiace. E io ripeto, un Moratti alle dipendenze di Toir non riesco a immaginarmelo. Claudio, provincia di Venezia, dicevamo. Sì, salve, buongiorno. Niente, io premetto che sono un simpatizzante interista perché mi sono avvicinato al mondo del calcio piuttosto tardi. Comunque, proprio per questo penso di parlare più con la testa che con il cuore. Penso che così come nel settore economico ormai le aziende italiane vengono comprate a livello internazionale da multinazionali, eccetera, e diventa normale che vengano comprate da francesi piuttosto che da orientali, eccetera, è inevitabile che accadrà la stessa cosa anche per le squadre di calcio, insomma, soprattutto se appunto ci sono miliardari che possono far crescere le squadre, cosa che attualmente non vedo in Italia, insomma. Sì, però, però posso ribattere una cosa. Lei dice è inevitabile che si arriverà a magnati internazionali che vorranno acquisire squadre italiane. Però io vedo che gli arabi non sono in Italia, vedo Abramovic è andato a prendere il Chelsea, a cominciare da lui, poi è arrivata tutta questa stirpe di parvenu del calcio, di straricchi, eccetera. Allora gli arabi sono andati in Inghilterra, sono andati in Francia, come lei ben sa, ma nessuno di questi è venuto in Italia. Ma perché? Perché la situazione italiana è di una complessità enorme. Io fossi un investitori arabi, investitori russi, non hanno mica l'anello al naso. Cioè, volessi investire dei soldi nel calcio, fossi un arabo, e non lo sono, non guarderei tanto all'Italia, dove la situazione è sempre molto complessa. Tu vieni qui, vuoi fare uno stadio, ma come? Ma c'è da aspettare 8 generazioni prima di poter arrivare a fare uno stadio. Vuoi arrivare qui e creare una struttura di merchandising, creare una struttura manageriale di alto livello? Ma come fai? È tutta una situazione estremamente magmatica, che ha delle sue regole non scritte che sfuggono agli investitori stranieri. Infatti chi è arrivato in Italia? Sono arrivati gli americani di Roma e forse questo tuo Irma, lo vediamo. Insomma, io non credo che il calcio italiano possa essere particolarmente attraente, se parliamo di business, per gli investitori stranieri. Ho una visione pessimistica, secondo lei? Ma allora l'alternativa è avere un calcio italiano mediocre, punto. Mediocre, un calcio italiano che vive secondo le sue logiche, che vive secondo le sue logiche, e poi mi sembra che da questo mercato così mediocre non stia emergendo, perché mai come negli ultimi anni. Perché fare i disfattisti a tutti i costi, ragazzi? Stiamo vivendo comunque un'estate in cui non sono mancati gli arrivi eccellenti, e non è ancora finita qui. Avremo tempo e modo per riparlarne. Ringrazio Franco Pertrida, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Alla prossima, ciao a tutti.